Incontri di Gianfranco Fabi. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Buonasera ai nostri ascoltatori, con le indimenticabili note, con l'indimenticabile voce di Lucio Dalla diamo inizio all'incontro di questa sera e buonasera ad Alberto Balocco. Buonasera, grazie per l'invito. Ecco, Alberto Balocco, un nome che parla da solo, però prima di presentarvi Alberto Balocco gli chiediamo perché Caruso, perché questa canzone, perché il Golfo di Sorrento per un esponente imprenditoriale come lui di Cuneo, del Piemonte, di una realtà che è un po' lontana dal mare. Beh, direi nel profondo nord, però poi nel mezzo del cammin di nostra vita mi sono avventurato verso parti più meridionali del nostro paese, perché quando avevo 24 anni ho conosciuto una ragazza a Capri che poi è diventata mia moglie, la mamma dei miei figli, per cui di fatto mi sento mezzo napoletano e quindi ho una forte affezione per quella canzone. E a questo punto il cuore è più napoletano che non è una zona a cui le piace tornare, cui... Sì, ci andiamo di continuo di fatto, perché ho mia suocera a Napoli, quindi per me la seconda città di fatto è Napoli. A parte le bellezze naturali che tutti ci invidiano, ma qual è la differenza maggiore tra Cuneo e Napoli? Beh, un salto culturale enorme, devo dire, perché da un punto di vista gastronomico ci sono veramente gli antipodi in gioco, ma poi soprattutto da un punto di vista dei valori, della cultura e anche dell'ospitalità ci sono profonde differenze. Devo dire, a me ha fatto molto bene questo bagno di ospitalità. I cunesi non sono famosi per la loro apertura. Di umanità, di apertura. Sì, i cunesi sono famosi anche per la loro imprenditorialità. È una assolutamente. Di imprese non mancano. Tra l'altro Alberto Balocco ha ricevuto nei giorni scorsi un premio come imprenditore dell'anno, il premio Esner Young, che annualmente premia le imprese e gli imprenditori di maggiore successo. L'ha ricevuto nella sezione Food and Beverage, mi sembra, della sezione alimentare. L'alimentare è uno dei settori che sta reagendo un po' meglio alla crisi, anche come settore e direi anche e soprattutto come azienda la sua. Sì, grazie a Dio, sì, l'alimentare è un settore che non sta subendo dei movimenti al ribasso a livello di consumi, in particolar modo i prodotti dolciari, che è il segmento in cui noi operiamo, devo dire stanno reagendo bene a momenti di crisi. Ovviamente non è un momento semplice, perché anche i consumatori hanno forti difficoltà a far quadrare i loro bilanci familiari, però per aziende che hanno messo la qualità al vertice delle loro priorità e che hanno fatto dell'efficienza un credo, c'è spazio ed evidentemente credo sia il nostro caso. L'azienda sta continuando a svilupparsi molto bene con dei ritmi di grande interesse. Sì, anche negli ultimi anni in cui i consumi interni restano abbastanza stagnanti. Sotto questo profilo è un'azienda che ha più di 80 anni, è nata nel 27. Sì, l'azienda è stata fondata da mio nonno nel 1927, mio nonno faceva il pasticcere, poi nel dopoguerra mio padre invece ha fatto il passaggio di dimensioni da un livello più artigianale ad un livello industriale ed è stato poi il fautore a tutti gli effetti. Ecco, quali sono stati i momenti principali nella vita di questa impresa, i salti di qualità maggiori che sono avvenuti? Ma senza dubbio il fatto che papà nel dopoguerra, momento in cui evidentemente l'Italia era da ricostruire, ha avuto la buona volontà di rimboccarsi le maniche ripartendo da zero, perché nella seconda guerra mondiale l'attività di mio nonno era stata per motivi politici completamente annullata. Ha saputo tirarsi sulle maniche, ha stretto i denti e devo dire ha fatto un'azienda che quando negli anni 90 è stata in qualche modo consegnata alla nostra generazione, cioè a mia sorella Alessandra e dal sottoscritto, ci è stato consegnato un bel oggetto, perché era un'azienda in perfetta salute, con zero debiti, con buona notorietà di marca, per cui direi che abbiamo delle fondamenta solide su cui è stato non facilissimo fare sviluppo, ma insomma non impossibile. Ecco, per molti prodotti e penso anche per magari anche i principali prodotti della sua impresa, la stagionalità è un punto punto di forza ma anche un problema, punto di forza perché in certi periodi si vende molto, ma anche un problema perché poi i macchinari dovrebbero comunque funzionare tutto l'anno per un'efficienza anche dal punto di vista aziendale. Come affronta il tema della stagionalità un'azienda come la sua? Ma noi lo abbiamo sempre vissuto come un punto di debolezza, la stagionalità. Per noi, in questo mio padre devo dire è sempre stato molto determinato, per noi vivere di poche occasioni di consumo, di contatto all'anno era un fortissimo limite, tant'è che all'inizio degli anni 2000 abbiamo provato, ovviamente perché non eravamo certi di riuscirci, ad entrare in un segmento molto ampio che è la prima colazione, che per certi versi è piuttosto simile anche al consumo dei dolci di ricorrenza, perché un panettone o un pandoro si consumano in un ambiente familiare, in occasione piacevole. La prima colazione è un altro momento di consumo sociale, un momento in cui la famiglia si riunisce, parte la giornata, non è mai un consumo punitivo, si fa scorta di calorie per affrontare gli impegni sia dei più piccoli che anche dei più grandi, per cui c'erano delle forti attinenze in termini di consumo, anche se in momenti tra virgolette piuttosto diversi. Ci abbiamo creduto, abbiamo investito molto, devo dire negli ultimi 10 anni abbiamo investito circa 57 milioni di euro in tecnologia. L'azienda oggi è un fiorellocchiello dell'efficienza, dicono i fornitori che la visitano, probabilmente uno degli stabilimenti più moderni ed automatizzati a livello del continente, e questo ha fatto sì che grazie a una buona qualità del prodotto, un grande spirito di sacrificio, ci sia riusciti a distribuire bene il prodotto e a far sì che la divisione, la prima colazione, diventasse l'asse portante della nostra azienda, senza nulla togliere ovviamente a Panettoni e Pandoro. Però devo dire, siamo entrati in un mercato molto complesso come quello dei biscotti frolline da colazione, siamo in questo momento il secondo attore del comparto alle spalle di un colosso importante che evidentemente Barilla, che per noi è un faro ovviamente a cui fare grande attenzione. Devo dire, siamo contenti di esserci destagionalizzati, ci ha consentito un contatto continuo con i consumatori tutti i giorni, tutte le mattine. Ecco, un'altra strategia è quella delle esportazioni. Voi siete presenti all'estero, riuscite a cercare mercati, o per un prodotto di questo tipo è difficile andare a portare le produzioni all'estero? Beh, intanto per il frullino la prima colazione non è facilissimo, perché le abitudini alimentari cambiano già al di là delle Alpi, la colazione spesso è fatta con direi ingredienti sì, salati, salsicce in qualche paese, quindi piuttosto che con i biscotti. Si fa un po' fatica a diluire questo modello di consumo anche oltre Alpe, però in realtà abbiamo la fortuna di avere dei prodotti che sono dei cosiddetti fuori pasto, cioè non consumati a colazione, come per esempio la pasticceria industriale, con cui riusciamo ad avere grandi risultati all'esportazione, e non ultimo in questo caso la divisione ricorrenze dà un grande contributo, perché il panettone è un dolce tipicamente italiano che viene consumato in tutto il mondo da dei milioni di italiani sparpagliati in ogni dove, ma anche poi da altre popolazioni direi indigene. Si pensa agli Stati Uniti, che sono il primo mercato di riferimento insieme al Canada per noi, ci sono fortissime comunità italiane nelle principali metropoli, ma poi ci sono anche moltissimi americani, se così li possiamo chiamare, che vanno pazzi per il panettone, che possono dare testimonianza anche del mangiar bene in assolutamente fondo. Ma anche perché poi abbiamo la fortuna di essere italiani, con tutto quello che non va in Italia l'Italian food, l'Italian style ha una grande valenza, una fortissima attrattività, quindi abbiamo un buon background da sfruttare. La Cina è ancora lontana. Grazie a Dio sì, la Cina è lontana e noi siamo più quotati. Meglio fare passi secondo le possibilità, quindi per ora il mercato europeo e il mercato americano. Ma per la verità noi esportiamo anche in Cina, questo sembrerà buffo, però grazie a Dio abbiamo la fortuna che i nostri prodotti non sono facilmente replicabili dai cinesi, questo è quello che ci salva. Sì, però forse la domanda è, bisogna creare una certa domanda, e questo non è probabilmente facile. Incontri. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai, è una catena ormai, e scioglie il sangue nelle vene. Ancora con l'indimenticabile voce di Lucio Dalla e con Caruso riprendiamo il nostro incontro con Alberto Balocco, amministratore delegato della Balocco. Abbiamo parlato nella prima parte del programma della sua azienda, un'azienda familiare nata nel 1927 a Fossano, ora la terza generazione, un'azienda che negli ultimi anni è riuscita a crescere nonostante le difficoltà del mercato, nonostante la stagnazione dei consumi in Italia, è riuscita a crescere puntando sulla qualità, puntando sulla diversificazione, puntando su superamento della stagionalità, anche se il panettone e il pandoro restano punti di forza, e puntando anche su una innovazione di marketing, di strategie di prodotto, di strategie di presenza sul mercato. Ecco, dottor Balocco, cosa vuol dire innovare per un'azienda come la sua? Ma innovare significa innanzitutto sapersi mettere in discussione tutti i giorni, non vivere di verità ricevute come sacre ed inviolabili, ma avere la lucidità e l'umiltà di mettersi continuamente in discussione. Cominciare da capo in un segmento come quello della prima colazione non è stato per nulla facile, perché onestamente sia i nostri competitor che anche i retailer, i nostri clienti, insomma, ci credevano un po' matti per certi versi. Aver avuto la tenacia di puntare ad un livello qualitativo nel mass market, quindi dove la competizione è quella più aspra, un livello qualitativo di altissimo profilo, mantenendo però una leva promozionale, quindi un posizionamento easy da un punto di vista della politica di prezzo, evidentemente negli ultimi anni è stato un punto di forza notevole. Non dimentichiamoci che è poco più di una decina d'anni che gli italiani sono abituati a maneggiare una divisa nuova come l'euro. All'inizio, mi ricordo, nei primi anni 2000 si faceva fatica, ragionando in migliaia di lire, a capire il valore delle decine di centesimi di euro. Oggi il consumatore è assolutamente maturo. Grazie a Dio noi abbiamo avuto anche la forza, la tenacia di investire molto in marketing, in comunicazione. Abbiamo investito risorse, direi in proporzione rispetto al nostro giro d'affari, davvero impensabili, sia usando la normale pubblicità televisiva, radiofonica, ma poi soprattutto andando anche a lavorare a partire dal 2010 sul marketing sportivo, cosa che onestamente non ci saremmo mai lontanamente sognati di riuscire a fare. Abbiamo debuttato in grande stile, abbiamo sponsorizzato per due campionati consecutivi la maglia della Juventus, tra l'altro nel secondo campionato, ovvero quello del 2012, anche con la vittoria del campionato dopo anni di magra. E quindi questa ribalta, questa importanza che il marchio immediatamente ha ottenuto è stata clamorosa. Immediatamente dopo abbiamo avuto nuovamente l'opportunità di arrivare su una maglia molto importante, che è quella, la maglia rosa del Giro d'Italia, a partire dal 2013, e devo dire questo ha dato un effetto booster alla notorietà e al vissuto, all'equity della nostra marca. Ma la scelta della Juventus è stata dettata più da sentimenti sportivi, da consonanza di tifo sportivo, oppure da una scelta fatta a tavolino secondo delle logiche di marketing evoluto? Ma tenuto conto che il 50% della famiglia tifa Napoli, direi che non si è ragionato su aspetti emotivi, ma su analisi assolutamente asettiche. Juventus è la squadra che in Italia vanta il maggior numero di tifosi, è la squadra che ha la maggior centralità da un punto di vista mediatica, ed è comunque sia la squadra che rappresenta a tutti gli effetti il calcio italiano nel mondo. Questo binomio Balocco Juventus in qualche modo ha trasferito parte del fascino, dello charme, del blasone Juventus anche sul marchio Balocco. Questo ha funzionato, devo dire, piuttosto bene. Anche perché è un marchio nazionale, piemontese di origine, ma ci sono tifosi della Juventus da ogni parte. E com'è diffusa un po' a livello regionale la domanda dei vostri prodotti, in particolare di quelli stagionali? C'è maggiore domanda al nord, probabilmente. Ma ormai, devo dire, il consumo di panettone e pandoro è assolutamente ben distribuito dalle Alpi alle Piramidi. Ci sono delle sottosegmentazioni che variano al variare dell'area geografica. Per esempio il nord-ovest è un'area dove il panettone riscuote maggior successo, mentre il nord-est e il sud Italia sono più votate al consumo di pandoro. Però alla fine sono dolci ormai che fanno parte della tradizione popolare, sono degli appuntamenti irrinunciabili, hanno raggiunto delle valenze addirittura nel lessico quotidiano. Quando l'allenatore è a rischio si dice che non arriva al panettone, quindi è diventato un prodotto icona della nostra vita. Tutti quelli che ci ascoltano arriveranno sicuramente al panettone, anche perché mancano pochi giorni. Diamo qualche consiglio utile per mangiar bene il panettone. Ma anzitutto, per mangiar bene un panettone occorre tenerlo lontano dal freddo, perché comunque il panettone e il pandoro anche quando si conserva? No, quando si conserva è corretto tenerlo in ambiente fresco, però quando poi lo si consuma è bene avvicinarlo a fonti di calore per almeno qualche ora prima rispetto al momento in cui verrà tagliato e consumato. Questo perché la base del panettone è il burro, e il burro dà il suo maggiore effetto nel momento in cui è a una temperatura direi piuttosto tiepida, quando è freddo rimane piuttosto legato. Comunque è un prodotto che si conserva per qualche settimana, per qualche mese. Assolutamente, è uno dei prodotti che pur senza alcun conservante ha una shelf life fra le più lunghe, questo grazie alla lievitazione naturale, che tra l'altro è un processo tecnologico antichissimo, perché ha origini addirittura a livello degli egiziani, e che viene impiegato tuttora su altre tecnologie produttive come lo yogurt, la produzione della birra eccetera, per cui è una tecnologia che consente, grazie a un ciclo di impasti e di riposi successivi lunghissimo, di mantenere una fragranza, una freschezza piuttosto importante, ribadisco, senza l'utilizzo di alcun conservante. Le faccio una domanda, ma se vuole passiamo anche alla successiva. Com'è il rapporto con la grande distribuzione? Ma è come sempre un rapporto complicato, perché ci sono interessi contrapposti, però la distribuzione è il tramite per raggiungere il consumatore, quindi è un comparto che va gestito con grandissimo equilibrio, con tanta attenzione, cercando di essere nel limite del possibile collaborativi, evitando in maniera totale qualunque scontro. Cioè sono dei partner talmente importanti che non si può che parlarne bene. Ma non è francamente voler in qualche modo sviolinare la distribuzione, è l'oggettività di mantenere rapporti sereni con tutte le componenti del lavoro, col sistema finanziario, con i fornitori, con i clienti, sono tutti elementi essenziali per poter lavorare. Ci vuole equilibrio, essere, se vogliamo, rispettosi ed educati nei confronti di tutti, far valere le proprie ragioni quando certo. È il caso di farlo, però non è mia abitudine da un punto di vista intellettuale scaricare le colpe degli insuccessi su terze parti. Però gli imprenditori sono un po' abituati, diciamo così, a lamentarsi: le banche, la pubblica amministrazione, i sindacati, le tasse, le cose di cui lamentarsi non mancano, però nel nostro paese qualcuno anche ha ragione. Perbacco, ci sono tantissimi motivi per cui si ha diritto di lamentarsi, però qualche volta secondo me lamentarsi è un'attività deleteria, perché fa perdere tempo e distrae le risorse dal rimboccarsi le maniche e provare ad andare avanti nonostante tutto quello che viene fatto per intralciarci. Il sistema finanziario è spesso oggetto di critiche e indubbiamente qualche cosa che non doveva essere fatto è stato fatto, ma chi non ha peccato scagli la prima pietra. Dal mio punto di vista, lo ribadisco, gli italiani sono molto bravi a lamentarsi, a dare la colpa all'arbitro se la squadra gioca male, ai professori se i figli non vanno bene a scuola. È molto più difficile invece cercare le ragioni dei propri insuccessi dentro se stessi, ma se per caso si ha l'umiltà di provarci, i risultati sono decisamente superiori rispetto al mero esercizio della lamentela. Ecco, che chiave di un successo di un'impresa magari appunto un po' periferica geograficamente come la sua, quale può essere la chiave per avere un po' una risonanza nazionale? Ma indubbiamente siamo una provincia dell'impero, come si suol dire, perché la provincia di Cuneo è veramente lontana da tutto e da tutti, è isolata, non è collegata bene da un punto di vista infrastrutturale, per cui bisogna avere un po' di elasticità, determinazione nel non pensare che Cuneo sia Caput Mundi, perché di fatto non lo è. Però ci sono piccole e grandi imprese anche della zona di Cuneo, quindi c'è qualche elemento nel DNA dei cuneesi? Ma assolutamente sì, perché sono per la gran parte direi i discendenti dei contadini e dei soldati dell'impero sabaudo, quindi gente abituata a stringere i denti, gente molto semplice, molto prudente, che ha sempre avuto a che fare a doppia mandata con la natura e che quindi non poteva essere certa della propria ricchezza, in quanto il raccolto era sempre vincolato a condizioni atmosferiche che non erano per definizione governabili. Questo ha fatto sì che i cuneesi siano tendenzialmente gente molto operosa, gente molto prudente, e se poi qualche volta riescono anche a diventare aperti, sono bravi ad attrarre talenti da altre parti del paese. Io ho una squadra di persone che lavorano con me, che arrivano da ogni dove, da Parma, da Milano, da Pavia, da Napoli, e lavorano in azienda, e questo è molto bello, vuol dire che nel nostro piccolo stiamo diventando un'azienda local. Qualcuno dice che la zona di Cuneo, così vicina al mare, ha anche molta aria che viene dal mare, si respira un'aria di mare, quindi i cuneesi sono anche navigatori. Poi. E confermo, questo è vero, e abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso, a meno di un'ora di distanza dalle cose più belle che si possono fare nel tempo libero, cioè dalla vita di mare, dalla vita di montagna. Le piste del Sestrier sono a 1 ora e un quarto, il mare della Liguria è 1 ora e un quarto, per cui siamo baricentrici e si può tendenzialmente sciare al mattino e andare in barca a vela al pomeriggio. Sì, beh, chi può farlo, chi ha voglia di farlo, meglio fare un giorno si scia, un giorno si va al mare. La concomitanza delle due cose da un punto di vista climatico stride un po', perché di solito quando si può andare a fare vita di mare non si scia. Comunque, se lei dovesse scegliere, andrebbe al mare a Capri. Beh, potendo scegliere senz'altro. Ecco, in prospettiva, allora, come vede? Indubbiamente far crescere la propria azienda, ha in mente qualche strategia particolare che possiamo rilevare ai pochi ascoltatori che ci ascoltano? Sì, cercando di non svelare troppo le carte, abbiamo raggiunto un livello di sviluppo piuttosto intenso, per cui si renderà direi piuttosto necessario un ampliamento della nostra capacità produttiva, che transiterà attraverso un ampliamento del sito produttivo di Fossano. Abbiamo un programma di sviluppo che, se tutto va bene, dovrebbe andare in bella nel biennio 2014-2015. Continueremo a lavorare nell'area Beccheri, perché è qui che ci stiamo muovendo con discreto successo, e quindi squadra che vince non si cambia. Cercheremo però di lavorare su un comparto non solo da prima colazione, ma in qualche modo complementare, continuando a sviluppare anche il momento di consumo fuori pasto, anche perché ci interessa molto il mercato non domestico, e quindi non vogliamo andare a far cambiare le abitudini alimentari a chi vive oltre le Alpi. È meglio che abitiamo noi stessi ad andare dietro le loro esigenze. Grazie ad Alberto Balocco, grazie a lei. Delegato di Balocco. Direi buona colazione domani mattina. Grazie. E buon panettone per Natale. Grazie ancora ad Alberto Balocco di essere stato con noi questa sera, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata ancora.